I get a good feeling, yeah. Yeah! Il coordinamento lesbica e presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità a cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte. Quella che sta per iniziare è la nostra 293esima trasmissione. Oggi qui in studio siamo Caterina che vi sta parlando, con me c'è Rosina e da poco ci ha raggiunto anche Stefania. Allora, per la trasmissione di oggi abbiamo pensato di iniziare un discorso per noi molto importante, quello sugli stereotipi di genere. Argomento spinoso, doloroso e troppo importante per poterlo esaurire in una sola trasmissione. Per questo motivo stasera inizieremo ad affrontare il discorso prendendo in esame gli stereotipi di genere nella letteratura infantile. Per farlo ci faremo aiutare da chi col suo lavoro tenta di combatterla. E con molto piacere, sperando che la riunione alla quale sta partecipando le permetta di rispondere al telefono, parleremo con Monica Martinelli della casa editrice 79 che, come si legge nel comunicato stampa che dà notizia della sua nascita, scrive 79, una casa editrice dedicata alla prevenzione della discriminazione e della violenza di genere attraverso i libri per ragazzi. Come dicevo questo è solo uno dei tanti aspetti del problema e quindi continueremo nella prossima trasmissione, quella del 4 febbraio, ad affrontare l'argomento e a parlare di stereotipi di genere andando a vedere da vicino gli effetti di questa strategia di potere, analizzando la ricaduta che questa ha all'interno delle scuole, cioè tangibilmente che cosa succede nelle scuole e quanto le insegnanti si rendono conto di riscontrare nei ragazzi che hanno davanti. Questa, anche in questa puntata chiaramente ci faremo aiutare, infatti in studio avremo il 4 febbraio alcune insegnanti di vari livelli scolastici. Io direi che per il momento possiamo fermarci qui. Prima di passare la parola a Rosina vi ricordiamo che potete inviarci un sms al 339 85 36 270, oppure potete telefonarci allo 06 49 17 50 per dire la vostra sull'argomento di stasera. Bene, a questo punto, tanto per introdurre meglio il discorso, ascoltiamo un brano musicale. Si tratta di Quante belle figlie, cantata però da Giovanna Marini. Un attimo solo che mi organizzo con il mixer e poi la mandiamo. I'm swimming in the love you give me. It's so natural. Comincia che sei ancora piccina, scegliendo il colore della camicina. Il rosa è il colore che ti rimarrà finché il principe azzurro arriverà. Se son belle nere vengo a lavorare, se son belle nere vengo. Per un buon lavoro di adattamento occorrono anni di allenamento. Così a 4 anni con la bambolina ti ha trasformata in brava donnina. Io te ne comanda una madonna, io te ne comanda una. Ti compro la Barbie con i vestitini ed il ciccio bello con i paciocchini. Le bambole assurde col pianto gettone e un disco che cracchia una brutta canzone. Che cosa ne vuol fare, madama da me? Che cosa ne vuol fare? Mi sembri un maschiaccio, non stare di fuori, aiutami invece a fare i lavori. non alzar la gonna, non dir parolacce, e i baci ti compran più delle minacce. La vuole maritare, madama Madonna, la vuole maritare. Tua madre moderna, perciò si sbilancia, ti dice che i bimbi stanno dentro la pancia, ti parla del seme, del fiore, del frutto, ma un po' troppo presto per dir proprio tutto. Con chi la marita resta, con chi la marita resta? Come fad uscire, si può anche spiegare, ma ti resta il dubbio. Come fa entrare, perché nel parlarti del frutto e del fiore si dimenticò di spiegarti l'amore. Col principe dei fiori, parlava d'ore, col principe dei fiori. E con questo dubbio non venne chiarito che tu a 16 anni prendesti marito. Il gioco riprende con bambole nuove, però di più bello stavolta si muove. Scegliete la più bella, parlava d'ore, scegliete la più bella. Che bella bambina, somiglia alla nonna. Come sarà bella quando sarà donna. Ma come sorride, ma come graziosa. Ma come sta bene vestita di rosa. Rieccoci nuovamente in studio, proseguiamo con la nostra trasmissione sugli stereotipi di genere. Nel maggio del 1973 Elena Giannini Belotti pubblicò il suo saggio Dalla parte delle bambine. Sicuramente è il lavoro più conosciuto nell'ambito degli studi delle discriminazioni di genere, dei condizionamenti, e quello che ancora, a cui ancora oggi si fa riferimento nel trattare questo argomento. Nel corso di questi 40 anni, 41 per l'esattezza, il libro è stato rieditato circa 60 volte, e questo fatto sottolinea come a distanza di tanto tempo questo testo sia ancora di una straordinaria attualità. L'analisi che Belotti ha fatto in questo suo saggio, esaminando l'imposizione culturale per maschi e femmine dalla nascita fino a tutta la scuola dell'obbligo, negli anni 70 e negli anni 80 divenne un elemento che serviva a scardinare quei principi dell'educazione che erano al servizio del patriarcato. Non ci dilungheremo su questo testo, ovviamente, nemmeno sull'altro di cui vi accennerò fra breve, perché appunto, come Caterina ha annunciato all'inizio di trasmissione, parleremo più diffusamente di questo nella nostra prossima trasmissione. Però vi volevamo citare un'affermazione contenuta in questo saggio bellissimo, e questa è l'affermazione: le radici della nostra individualità ci sfuggono, altri le hanno coltivate per noi a nostra insaputa. Questa frase già da sola spiegherebbe tutto quello che c'è da sapere. Non è soltanto terribilmente attuale ancora, ma certamente è costantemente aggiornata. Sappiamo perfettamente che nuovi stereotipi, nuovi condizionamenti, nuove imposizioni si affacciano continuamente nella scuola, nella vita, nei giochi delle nostre figlie, delle nostre bambine. Proprio a partire da quel famoso, ormai vecchio saggio di Elena Giannini Belotti, Loredana Lipperini nel 2007, quindi sette anni fa, anche questo è un altro testo piuttosto datato, se vogliamo, ha scritto ancora Dalla parte delle bambine, appunto un testo uscito nel 2007, e non è un caso che appunto recuperi quel titolo della Belotti, perché appunto questo testo sottolinea una sorta di passaggio del testimone, e non a caso la Belotti stessa ne ha curata la prefazione. A distanza di tanti anni, cosa ci dice questo testo e gli altri ancora che sono usciti? Ci dicono che è ancora essenziale stare dalla parte delle bambine, perché appunto quegli stereotipi, quei condizionamenti, quelle discriminazioni si fanno ancora fortemente sentire nei differenti modelli educativi che vengono adottati nell'educazione tra bambine e bambini. Lipperini non fa altro che riattualizzare il discorso di Belotti, prendendo appunto in esame i nuovi pericoli di questa sorta di restyling educativo del mondo occidentale che appunto abbiamo sotto gli occhi quotidianamente, e ci rende ancora una volta un panorama piuttosto desolante. In 40 anni e negli ultimi quasi 10 è cambiato veramente molto poco. Però è anche vero che in questi 40 anni, grazie appunto all'apripista Belotti, è fiorita una letteratura piuttosto vasta per le bambine, scritta prevalentemente da donne femministe, che ancora oggi fiorisce e che avversa, o perlomeno tenta di avversare, gli stereotipi di genere. Caterina ha fatto un ottimo lavoro raccogliendo diversi titoli di libri per bambine e bambini in età, diciamo, dai 3 fino ai 12-13 anni. Ce ne sono moltissimi, ve ne cito qualcuno: Rosa Confetto e altre storie di Turina Dela, Il mostro peloso di Bichonnier, spero di pronunciarlo come si deve, La principessa all'attacco di Kedru, La storia incredibile di due principesse che sono arcistufe di essere oppresse, il libro di cui parleremo stasera, C'è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa, ma ancora La Pizzorno, l'incredibile storia di Lavinia, Le cattive ragazze, addirittura Levi Montalcini, Le tue antenate, insomma ce ne sono moltissimi, basta saperli individuare nel mazzo, come dice Caterina, e trovare il modo di portarli all'attenzione delle piccole. Senti, e anche se mi permetti piccoli. di fare soltanto un inciso a questa meravigliosa cosa che hai detto fino adesso, volevo sottolineare semplicemente che magari oggi non so se sia reale o meno, è un'illazione che sto facendo, però forse è una speranza, ci può essere anche qualche scrittore uomo che scrive libri per l'infanzia, però l'incipit iniziale è cominciato nel periodo del femminismo degli anni 70, quando le donne non ero nato, no. Io sì, purtroppo anch'io. E già avevo a che fare con i bambini a scuola, per cui c'erano una serie di donne femministe. Io mi ricordo la libreria delle donne lì a Trastevere, cioè, che è stata una delle pioniere a pubblicare e a vendere questi libri, insomma, ecco, come sempre succede nella rilettura della storia, per esempio della storia delle donne, sono le donne che se ne fanno carico, così come attraverso la letteratura le donne stesse hanno preso in mano la situazione e hanno cominciato a scrivere. Certamente. Allora, tornando allo specifico, questa sera appunto abbiamo detto che vi parleremo di un libro che è uscito per i tipi della casa editrice 79, e il titolo, l'abbiamo sentito prima, la dice lunga sul contenuto del volume stesso. Si tratta di C'è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa, di Raquel Díaz Reguera, che è un'artista e una illustratrice spagnola che vive a Madrid e dal 2010 ha pubblicato 9 albi illustrati di grande successo. Adesso mi avventuro che Ay Más Aburrido Que Es Una Princesa Rosa, esatto, è il suo primo lavoro. Prenderemo spunto proprio da questo volume, appunto, per parlare di stereotipi di genere e di condizione femminile, in questo caso la condizione appunto delle bambine, e lo ascolteremo, ci metteremo in contatto fra poco con Monica Martinelli nella speranza di riuscire a raggiungerla, esatto, dove si trova, e in modo tale che lei ci darà alcune notizie relative alla casa editrice e al lavoro che la casa editrice tratta. Dunque, Caterina prima lo ha accennato, appunto 79 si dedica alla prevenzione della discriminazione e della violenza di genere attraverso i libri per ragazze e ragazzi. È fondamentale fare in modo che queste opere e il lavoro di queste case editrici sia sempre più puntuale e più preciso, proprio perché è dalle basi che si, appunto, che crescono le case, le fondamenta. Esatto. Bambine e bambini imparano le cose molto, molto piccoli, ed è bene in qualche modo trovare l'occasione per indirizzarli. Diciamo anche fargli vedere l'opzione di scelta. Esattamente. Perché siamo un po' fissate sull'opzione di scelta, noi leggiche, devo dire. Allora, chi è Carlotta, la protagonista di questo bel libro, un libro illustrato che si legge a più livelli, ma questo magari poi ce lo spiegherà direttamente Monica Martinelli. Carlotta è una principessa rosa, con un vestito rosa, una stanza rosa, giocattoli rosa, come appunto deve essere una principessa. Sembra mia nipote, poi magari più in là vi racconterò. Però questa Carlotta se è stanca, non ha più voglia di essere una principessa rosa, non vuole baciare i rospi nella speranza che diventino principi e si vuole vestire, come dice lei, di rosso, di verde, di blu, di viola, di giallo, insomma. Vuole correre, giocare, cantare, viaggiare, senza essere costretta in un ambito o in ruoli scelti da altri per lei e per tutte le principesse rosa come lei. In una parola, Carlotta vuole essere libera, e questo è un messaggio che speriamo avere poco. Ti sembra poco? Libera dai condizionamenti, dalle imposizioni, libera di scegliere quello che le piace e quello che non le piace. Quindi Carlotta si ingegna e cerca di spiegare a tutti e a tutte che le principesse non sono fiori fragili, ma sono invece bambini in carne e ossa. Finalmente riuscirà a spiegare questa cosa e a vestirsi appunto di rosso, di blu e ad essere quello che vuole, grazie anche all'aiuto di una fata madrina che per una volta fortunatamente viene incontro ai suoi desideri legittimi. E insomma, questo è ovviamente l'augurio che anche noi rivolgiamo a tutte le bambine a cui fanno credere di essere principesse rosa oppure no, ma invece spesso sono appunto soltanto prigionieri di stereotipi e condizionamenti. A questo punto Caterina ha scelto per noi il bellissimo brano di Four Non Blondes, What's Going On, e noi aspettiamo di parlare con Monica. Nel frattempo cercheremo di far emergere dalla riunione di lavoro alla quale purtroppo proprio oggi è costretta Monica, sperando che possa avere almeno un quarto d'ora per noi. Noi intanto ci proviamo e mandiamo in onda la canzone. years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Eccoci qua, adesso se ho fatto tutti i passaggi giusti, in linea dovremmo avere Monica. Ci sei? Dimmi di sì, ti prego, Monica. No, buonasera a tutti. Vai, c'è Monica. Buonasera, che noi, adesso lo diciamo anche alle ascoltatrici, abbiamo provato a telefonare a Monica poco fa e non c'è risposta, ci aveva preso il panico a tutte quante perché adesso come la riempiamo la trasmissione. Perché non ricevevo la chiamata, quindi non riuscivo a capire cosa stava succedendo. Allora. Va benissimo, allora intanto allora benvenuta, siamo contentissime di averti ai nostri microfoni e tu sai già, vero, che ti arriverà una sfilza di telefonate, vogliamo sapere tutto, il perché, il per come, il quando e il dove. Benissimo, benissimo, vi aspetto numerose. Allora, dunque, noi abbiamo anticipato prima nella trasmissione, che tu chiaramente stando una riunione non hai ascoltato, che la tua casa editrice ha un obiettivo specifico, no? Che è quello di combattere gli stereotipi di genere e è una sorta di prevenzione alla discriminazione e alla violenza di genere. Esatto. Allora, siccome questa definizione noi non è che aderiamo e la sottoscriviamo di più, per cui volevamo sapere da te come è nata l'idea di una casa editrice così dedicata. Se ce ne puoi dare spiegazione, insomma. Ma sì, l'idea è nata perché fondamentalmente non c'era, ma ce n'era tantissimo il bisogno, perché sono un'appassionata di libri per l'infanzia, sono un'appassionata anche di libri scolastici e di editorie in generale, e vedevo un po' come erano i libri per ragazzi. Poi ci sono delle ricerche molto interessanti e molto importanti su questo tema, e queste ricerche hanno evidenziato proprio come gli stereotipi sessisti siano presenti in maniera copiosa, diciamo, nei libri per ragazzi e nei libri scolastici, per cui io attraverso questi libri cerco un pochino di dare un contributo a rompere un po', questi stereotipi, cercare di ribaltare i ruoli, dando modelli positivi di comportamento nei rapporti fra uomini e donne, modelli alternativi nelle rappresentazioni delle ragazzine e dei ragazzini, insomma tutto quello che può servire a decostruire un po' questa costruzione del genere un po' imposta dalla società. Certo, senti, ma siccome ti sento particolarmente appassionata a questo, mi viene da pensare che alle spalle non c'è soltanto un discorso di lavorativo, c'è della passione che va secondo me oltre, e quindi mi viene spontaneo chiederti quanto della tua storia personale ha inciso su questo tipo di scelta. Ma la mia storia personale ha inciso tantissimo, ma non nella maniera in cui spesso si pensa. Io ho avuto un'esperienza bellissima nella mia famiglia di origine, con mio padre e mia madre, che avevano un rapporto assolutamente paritario di collaborazione, e altrettanto un'esperienza positiva con quello che adesso è mio marito e con il quale sto da quasi 20 anni, nonostante siamo abbastanza giovani. Certo. 20 anni è da notare questa cosa, perché insomma sono poche le storie che durano. 34 anni ci siamo messi insieme, ne avevo 16. Capirai. E siamo ancora insieme felicemente, ma la cosa che mi ha stupito poi è stata che io mi sono resa conto del fatto che esistessero questo tipo di discriminazioni e di costrizioni una volta che mi sono affacciata fuori di casa. Ossia, ho visto tutto quello che c'era al di fuori di casa mia, l'ho trovato assolutamente, veramente improponibile, assurdo, e da lì è partita tutta questa lotta all'inizio personale e poi in qualche modo collettiva attraverso diversi progetti che ho seguito, e poi adesso attraverso 7-9. Ad un certo punto ho incontrato delle persone che hanno dato un po' una base teorica a quello che provavo da ragazzina, e da lì è partito quel percorso che mi ha portato poi a fondare 7-9. Ecco, nasce fortunatamente da una bella esperienza che mi piacerebbe potessero condividere tutti. Certo, senti, ma a questo punto puoi spiegarci il perché del nome 7-9, perché noi l'abbiamo letto, lo sappiamo, però ci fa piacere che tu lo possa ridire anche alle ascoltatrici, ed il significato delle parentesi poi che stanno presenti nel logo della casa editrice, no? Certo, allora 79 è un po' una celebrazione del 1979, che è l'anno di fondazione della CEDAW, cioè la Convenzione Internazionale contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne. In questa convenzione, molto importante, una convenzione ONU che ancora è presa a parametro oggi per valutare il trattamento delle donne nei vari paesi nel mondo, c'è un articolo che si occupa proprio dell'educazione e degli stereotipi di genere. Cioè in questa convenzione nel 79 già si dichiarava che lo stereotipo di genere è il seme della violenza e quindi che andava eliminato, ed è una cosa che, ed è un diciamo un patto che gli stati hanno fatto firmando questa convenzione, inclusa l'Italia, ma ancora è successo ben poco. 79 si propone come propone appunto dei modelli positivi, e quindi cerca di operare attraverso la propositività e la positività dei modelli, e questo è un po' il significato delle parentesi. Diciamo che 79 si mette al di fuori delle parentesi chiuse, perché cerca di operare al di fuori di questa società costruita, di queste regole imposte, lavorando per un mondo non utopico, ma un mondo assolutamente possibile. E certo, certo. Noi, a parte tempo fa, qualche tempo fa, abbiamo fatto un'intervista a Bianca Pomeranzi del CEDAW, per cui siamo molto sensibili anche a questo aspetto. E a me l'idea di stare fuori dalle parentesi, a parte mi dà una sensazione di libertà assoluta, ma non mi dà anche una visione di possibilità estrema, perché non essendo chiusa da nessuna parte io posso spaziare. Allora tu sai che noi siamo un gruppo politico lesbico, per cui per esempio per noi l'opzione della libera scelta diventa fondamentale, e quindi non avere degli stereotipi che ti collocano a prescindere solo perché tu sei nata femmina in un determinato posto, per una bimba o per un adolescente o per una ragazza che si scopre lesbica, avere davanti una serie di opzioni di scelta è fondamentale. Quindi voglio dire, noi abbiamo un'aggiunta ancora in più. C'è anche Cosina che mi sembra un logo, che il logo è un logo dinamico, nel senso che esattamente per questo in molti libri il logo sarà, le parentesi saranno posizionate in un punto e il testo anche in punti di, il testo diciamo 7-9 anche in punti diversi del libro, ogni libro sarà in un punto diverso, certo. Per fare questo non è standardizzata la cosa, il movimento assolutamente continuo, nulla, assolutamente nulla di standardizzato, lo devi afferrare. Sai che c'è e diventa uno strumento che tu puoi prendere quando vuoi, questa mi sembra un'ottima cosa. Senti, io ti faccio un'altra domanda, poi se tu hai ancora un po' di tempo manderei un breve stacco musicale e poi ti farei altre domande, se tu hai tempo, dimmi sì, tu. Sì, prego, prego. Allora, io volevo sapere intanto, magari, cioè io lo so perché sono informatissima, mi sono fatta i fatti tuoi della casa editrice, sono molto informata, però mi rendo conto che chi ci sta ascoltando forse non ha avuto la possibilità di passare tutto questo tempo davanti al computer come me, e volevo che per piacere tu ci dicessi quantomeno come titoli i libri che sono stati pubblicati finora. Sì, allora, è stato pubblicato C'è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa. E questo ne abbiamo fatto noi una piccola minima recensione, ecco. Anche perché Rosina l'ha regalata alla nipote, quindi... quindi già lo conoscete, quindi non so neanche a parlarne. Ma cioè, il titolo insomma lo dice lunga. Poi abbiamo pubblicato Papà aspetta un bimbo, sulla paternità, e quindi sulla presenza anche del padre all'interno della vita familiare. Certo. Abbiamo pubblicato Di pari passo, che è un percorso per le scuole medie contro la violenza di genere sull'abbattimento degli stereotipi. Ed è un libro al quale tengo molto perché l'ho fortemente voluto, è legato all'associazione Terre des Hommes e sta già girando per le scuole con dei percorsi molto interessanti. Poi Miss Market di Lori Penny, che è un saggio di questa giornalista del Guardian, femminista. E poi adesso uscirà Hector, l'uomo straordinariamente forte, e che uscirà a fine gennaio, ed è un libro carinissimo di un uomo fortissimo nel circolo, uno dei forti del mondo, che però ha la passione per l'uncinetto. E poi ci hanno insomma una serie di libri quest'anno sempre legati al discorso degli stereotipi. Ci hanno dei libri di saggistica, uno di Graziella Priulla, del quale sono molto felice, che uscirà a giugno, e poi questo, ma ne usciranno altre, c'è ancora tutto in lavorazione, anche la linea editoriale insomma si sta definendo mano a mano. Ok, Monica, prima di mandare la nostra canzone volevo raccontarti questa cosa. Ho regalato appunto la principessa Rosa a mia nipote, che è effettivamente un confetto. Allora la scena era questa: lei era in terra che stava scartando tutti i suoi regali di Natale, finalmente arriva la principessa Rosa, lei lo apre e fa: oh, che meraviglia! Lo mette da una parte e agguanta una delle numerose bambole della sua collezione di Barbie e gioca con quello, giusto per dire la potenza dello stereotipo. Io non mi morto, a volte ha avuto anche un potere un pochino più forte. Ha avuto anche un pochino più di potere, esatto. Mentre io mostro la mia collezione di acari o di farfalle a seconda del caso, lei mostra la sua collezione di Barbie. Pazienza, ma io la recupererò le sue collezioni, c'è le sue perversioni. Senti, allora adesso io vorrei mandare invece una canzone che è una canzone popolare, credo che sia pugliese, perché anche al di là della letteratura per l'infanzia, c'è anche molto nella tradizione orale e cantata, nella tradizione popolare, diciamo. All'inizio della nostra trasmissione, per esempio, abbiamo mandato in onda la riedizione fatta da Giovanna Marini di O quante belle figlie, che cioè, anche lì mette in luce quelle che sono come dire le forme, come si dice, Rosina, non mi viene la parola, di costrizione, esatto, che ti basano, ti fanno ingoiare da piccola, ecco. Adesso invece questa qui si intitola La figlia dell'uree, praticamente in sostanza è la storia di questa donna destinata ad un uomo dal padre, che per evitare di sposare quest'uomo che lei assolutamente non vuole, alla fine si ammazza. Cioè, è un po' triste, però la dice lunga sulle costrizioni. Allora ascoltiamo questo brano e poi riprendiamo la trasmissione con Monica. Yeah. naturalmente vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. Potete ascoltarci attraverso il sito della radio in diretta www.ondarossa.info oppure tramite il sito ufficiale del CLR www.clrdp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta. Ci potete contattare anche in radio fino alle 22 allo 06 49 1750 oppure tramite SMS al 339 85 36270. Per le tecnologiche contatti @CLRDP oppure visitando la nostra pagina Facebook del CLR oppure andando sul nostro sito www.clrdp.it. Per le vetero potete scrivere una lettera a CLR presso la Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B00165 Roma. Allora, ritorniamo a noi. Monica, ci sei sempre? Ci sono sempre. Ok, okay, volevo un attimo, non sei svenuta dopo questa canzone molto allegra, devo dire. Vabbè, per la riflessione, aiuta a riflettere. Esatto, esatto. Ascolta, io volevo riprendere un attimo in mano il discorso, perché essendo stata per molti anni un'insegnante, tu sai che il discorso che tu fai nel comunicato stampa dove dici di voler entrare nelle aule scolastiche per con i libri che tu pubblichi, allora mi viene da farti questa domanda: che tipo di contatti hai o hai preso o vuoi prendere con le istituzioni scolastiche? Cioè come intendi muoverti in questo ambiente? Allora, io mi sto muovendo soprattutto attraverso il libro di cui vi parlavo prima, che è Di pari passo, mm-hmm. Ed è un libro per le medie, per cui al momento io sto lavorando con le scuole medie, soprattutto nel nord Italia, mm-hmm. perché l'autrice Nadia Muscialini, che è responsabile di un centro antiviolenza molto importante di Milano, mm-hmm. aveva già dei contatti con le scuole e aveva già iniziato questo percorso contro la violenza di genere, di abbattimento degli stereotipi. Mm-hmm. Attraverso lei e attraverso Terre des Hommes stiamo contattando diverse scuole. Io personalmente mi sono appoggiata a Nadia Muscialini, quindi a Soccorso Rosa oppure a Terre des Hommes per l'ingresso, per l'ingresso nelle scuole, anche perché sono delle istituzioni già conosciute. Fosse arrivata io come Monica Mattinelli o 7-9 forse non avrebbero neanche preso in considerazione a un certo punto, perché tanto poi bisogna dire le cose come stanno, che purtroppo insomma serve anche un attimo di sostegno, almeno anche nell'esperienza, chiaramente, perché io avevo poca esperienza da questo punto di vista. Sì. E per quanto riguarda invece la zona del centro Italia, poi la zona in cui vivo, che sono le Marche, nella provincia di Pesaro in particolare, sono associata ad un'associazione che si chiama Percorso Donna, che si occupa proprio di promozione culturale legata ai temi della prevenzione, alla violenza e alla discriminazione di genere, e anche attraverso loro, e stasera proprio la riunione verterà proprio questo tema, e stiamo cercando di entrare nelle scuole, quindi legandoci comunque a delle associazioni del territorio. Okay. Questo è molto importante. Certo, ma comunque nelle scuole funziona così, sai, funziona un po' a passaparola. Il problema delle scuole è un problema atavico, che è quella della carenza di soldi, di sovraffollamento delle classi, di progetti che arrivano, immagino, sì, no, ma progetti poi che sei obbligato a fare. Cioè io mi ricordo che ho fatto un corso degli scacchi che non c'entrava praticamente niente, pure dovevo fare quelle ore di aggiornamento annue, e alla fine, sai, tu sei costretta a fare e prendi quello che c'è, purtroppo. Però io confido moltissimo nel corpo insegnante, perché è quello che si riesce a fare indipendentemente dall'obbligo, è decisamente molto più interessante, più bello e più fattivo di quello che potrebbe assolutamente essere. Assolutamente, no? Tra l'altro ho conosciuto, insomma, ho avuto modo in questi mesi di conoscere tantissimi insegnanti che lavorano ben oltre l'orario di lavoro proprio per portare avanti dei progetti che non sono obbligatori, esatto, per i quali non ci sono soldi, quindi li portano avanti con ore di assoluto volontariato, dedizione, e veramente sono persone straordinarie. Esatto. E infatti la speranza che questi progetti per le scuole passassero come progetti obbligatori era proprio questa, insomma, di dare un supporto formale anche e materiale sostanziale alle persone che hanno veramente voglia di portarli avanti, perché ce ne sono veramente tanti, però la difficoltà, certo, del numero delle ore a disposizione, dei soldi certo, mai disponibili, eccetera, chiaramente sono tutti problemi in più. Certo. Senti, ma allora i titoli dei libri che hai elencato sono uno più interessante dell'altro, però ci stavamo domandando come fai a reperire il materiale e di quali collaborazioni ti avvali per poter venire a conoscenza di manoscritti che poi tu decidi di pubblicare. Come lo trovi il materiale? In realtà tutto il lavoro di ricerca lo faccio un po' da sola, poi conosco fortunatamente moltissime persone alle quali chiedo tanti consigli, mm-hmm, e c'è una rete di persone esperte o appassionate di questi temi a cui mi rivolgo per capire se un testo valga o meno la pena di essere pubblicato. All'inizio ho cercato i testi, soprattutto i libri per ragazzi, all'estero, soprattutto in Francia e in Spagna, perché sapevo che in quei paesi erano già stati pubblicati dei libri che sarebbero stati perfetti per 7-9, certo, quindi ho deciso di pubblicare e li ho cercati da sola, proprio andando materialmente nelle librerie di Madrid e di Parigi a sfogliarmi i libri. Certo, è sempre uno per parlare di passione, no? Ecco. Sì, ma poi sono andata soprattutto nelle librerie delle donne di Parigi, nella libreria delle donne di Madrid, in cui c'era l'uscibile umano sul tema, l'uscibile umano spagnolo e francese sul tema, inclusi i libri ragazzi che loro avevano già selezionato tra quelli non sessisti, per cui è stata proprio una ricerca a un certo punto mirata. Certo. Una volta aver pubblicato questi primi libri perfetti già da soli, perché insomma i primi tre non erano progetti miei ma erano progetti esteri, sono stati un pochino, la mia idea era questa, cioè di creare un po', diciamo, uno specchietto per le allodole per gli autori italiani che volessero pubblicare testi di quel genere e che non trovavano una casa editrice adatta. In questo modo mi sono fatta conoscere dicendo: io pubblico queste cose, chi ha voglia di pubblicare, comunque che propone testi interessanti su questo tema, può rivolgersi a me per la valutazione. E così è stato, perché poi sono arrivati dei testi molto interessanti di autori italiani che sto valutando e alcuni ne sto pubblicando. Ottimo. Quindi insomma il percorso arriva da lontano, perché ormai sono 2 anni che lavoro al progetto, i primi libri sono usciti a settembre, ma tutto il lavoro di studio, ricerca, chiacchiera con le persone, viaggi eccetera è partito diverso tempo fa. Certo. Monica, purtroppo il tempo è tiranno, però ci corre l'obbligo, visto appunto questo fenomeno mediatico straordinario che attraversa il nostro tempo, di farti una domanda su Violetta, tu conoscerai, io la conosco perché appunto ho una principessa rosa in casa e quindi per forza di cose ho dovuto fare i conti con questa ragazzina adolescente. Barbara Mapelli, che è docente di pedagogia della differenza alla Bicocca di Milano, sostiene che Violetta è l'emblema di una femminilità stereotipata, cito testualmente, e che l'educazione delle bambine sembra aver fatto un salto all'indietro. Vuoi dire qualcosa a discolpa di Violetta oppure la vuoi rambellare? A discolpa di Violetta posso dire che forse lei è entrata nel vortice, perché non credo che sia stata lei a scegliere cosa fare, cosa dire, come muoversi. Quello che dispiace, insomma, vedendo un fenomeno di questo genere, è che io immagino che questa ragazzina abbia delle competenze, suppongo, perché comunque è stata un'attrice prima e una cantante ora. Quello che emerge però sicuramente non sono le sue competenze vocali, quello che emerge è la forza del suo fisico, e l'apparenza e così via, è quello che tutti quanti possono vedere, perché sicuramente è un passo indietro il fenomeno. Non vorrei dire preoccupante, perché magari può essere esagerato, però in qualche modo, se c'è questo seguito, possiamo anche dire che è un fenomeno preoccupante il fatto che si valuti che una ragazza esprima la sua personalità in questo modo e quindi che funga da modello. In parte la responsabilità non è non è soltanto di Violetta, ma sono dei ragazzi, no, dei ragazzi, certo, ragazze, certo, che la seguono, in parte anche degli adulti che stanno intorno a questi ragazzini. Quindi ogni fenomeno va visto e analizzato in modo critico attraverso la presenza di un adulto a fianco, credo. Certo. Monica, noi ti ringraziamo veramente dal profondo del cuore per partecipare a questa nostra trasmissione e speriamo di poter collaborare con te in futuro, insomma, se avrai anche altre cose da presentare. Molto volentieri. Ci teniamo in contatto, Caterina tiene tutti i fili, perché lei è la pupara in questo caso. Quindi nelle vostre mani. Noi ti ringraziamo davvero molto, ti auguriamo buon lavoro e mandiamo in onda l'ultima canzone che è di Alain Morisset dal titolo Things. Ringraziamo Monica di aver partecipato, salutiamo. Grazie mille a voi. E diamo appuntamento. Grazie, buona serata a te. Diamo appuntamento a tutte le ascoltatrici al seguito di questa trasmissione, che con delle ospiti che sono, appunto, come dicevamo all'inizio, insegnanti di diversi ordini scolastici, per cui andremo a vedere la ricaduta che questo sistema così viziato porta direttamente sui banchi scolastici. Quindi il coordinamento Lesbiche Romane vi dà appuntamento al 4 febbraio. Grazie a Stefania, che è diventata un'ottima tecnica, che mi ha supportato solo guardandoti, ha guardato questi appunti, mi sembra tantissimo. Va bene, allora buon proseguimento di serata e ci sentiamo a presto, ciao, buonasera. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I believe.